La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici in studio, Maurizio, benvenuti, che vi abbraccia tutti quanti. So che, come al solito, siete numerosi e pronti per seguire questo secondo appuntamento con Nativi Americani, ieri e oggi, insieme a Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice, antropologa e attivista per i diritti umani. Beh, dopo la prima puntata che ha visto protagonista il film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, e da qui Raffaella Milandri ha voluto partire per questo format sui Nativi Americani, tra poco sapremo su che cosa verterà questa seconda puntata sui Nativi Americani. Beh, intanto salutiamo Raffaella Milandri, che è in linea. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi. Salve Maurizio e salve a tutti i radioascoltatori di Radio Talpa. Allora Raffaella, di cosa parliamo oggi? E oggi parliamo di un episodio epico, la vittoria dei Lakota a Little Bighorn e di Custer. E inizio con un piccolo aneddoto capitatomi proprio sul territorio Lakota, nella riserva di Roosevelt. Ricordiamo con orgoglio il giorno in cui conquistammo la bandiera americana, strappandola al settimo cavalleggeri e sconfiggendo Custer e l'esercito dei bianchi a Little Bighorn il 26 giugno del 1876. Noi siamo la discendenza di quei guerrieri. Questo è il nostro fiero popolo. Così aprì una conferenza, appunto, con voce tonante una donna Lakota al Wachipi di Roosevelt, e dal vigore della sua voce sembrava che fosse successo due giorni prima e non che fossero passati più di 140 anni. Appunto perché le Black Hills sono sacre nella religione Lakota, il governo degli Stati Uniti, durante il famoso trattato di Fort Laramie del 1868, a fin di pace garantì che esse sarebbero state per sempre, tra virgolette, parte della riserva Lakota, la Great Sioux Reservation. Si erano fatti i conti senza l'oste. Nel 1874 fu proprio Custer che condusse una spedizione esplorativa nelle Black Hills che portò alla scoperta dell'oro in quella regione e alla successiva Gold Rush, corsa all'oro. Ci fu una vera e propria invasione di cercatori d'oro, di avventurieri bianchi che si precipitarono proprio come locuste sulle terre Lakota, e da qui insorse la Great Sioux War, chiamata appunto la guerra delle Black Hills, che arrivarono poi appunto alla famosa battaglia di Little Bighorn. Gli Stati Uniti decisero infatti di riprendersi la terra sacra ai Sioux Lakota nonostante gli accordi siglati, e la battaglia del Little Bighorn fu l'epilogo per Custer, che fu doppiamente colpevole agli occhi della Lakota. Fu l'artefice della scoperta dell'oro prima e poi fu avversario sul campo come nemico. Immaginate un popolo tradito e pugnalato alle spalle che accetta di lasciare il proprio immenso territorio per ritrarsi una riserva che poi se la vede strappare perché è stato trovato l'oro, quindi per le ricchezze del sottosuolo. Beh, certo che la battaglia del Little Bighorn suscita subito tantissimi ricordi. Chi di noi non ha sentito parlare di questa epica battaglia? Chi non ha mai sentito parlare del generale Custer? Beh, allora, Raffaella, come si arrivò alla battaglia del Little Bighorn e chi erano gli avversari a combattere? Nel frattempo, ecco, i Crow si erano riconfermati amici e alleati degli Stati Uniti, e fornendo degli scout all'esercito proprio per combattere contro i Sioux Lakota e i Cheyenne. Nella guerra contro i Sioux, i Cheyenne e gli Arapaho, il colonnello Gibbon negoziò l'alleanza dei Crow, che accettarono insieme agli Shoshoni e quindi, diciamo, si aggiunsero altri scout. Più di 150 Crow aiutarono la colonna Wyoming del generale Crook a scovare i Sioux di Cavallo Pazzo e poi il 17 giugno al Rosebud Creek salvarono il generale Crook e i suoi uomini da una fine simile a quella che invece avvenne solo pochi giorni dopo, la fine che fece il generale Custer. Nella battaglia di Rosebud, i Crow e gli Shoshoni combatterono a fianco dell'esercito americano contro i Cheyenne di Due Lune e i Sioux di Cavallo Pazzo. E i Cheyenne insultarono i Crow, nemici e dalla parte dei bianchi, e li chiamarono donnicciole. Nonostante la schiacciante inferiorità numerica e una scarsità di armi da fuoco, i Lakota e gli alleati Cheyenne diedero del filo da torcere all'esercito americano. Dopo la battaglia di Rosebud, Crook dichiarò che aveva vinto, anche se non era esattamente così. 8 giorni dopo si arrivò alla epica battaglia del Little Bighorn. Buona parte degli scout Crow selezionati da Gibbon passarono sotto il generale Custer e il suo settimo cavalleria e il 25 giugno avvenne appunto la famosa sconfitta di Custer, dove Custer stesso e 270 uomini, inclusi alcuni Crow, persero la vita. Ecco, raccontaci in breve come avvenne questa battaglia che molti di noi l'hanno vista anche in diversi film americani. In breve la battaglia. E sul territorio Crow il 25 giugno 1876, una data storica, si fronteggiarono da un lato Lakota, Dakota, Cheyenne e Arapaho e dall'altro il settimo cavalleggeri dell'esercito al comando di Custer, con le guide scout Crow e Arikara. Tra i condottieri indiani, Cavallo Pazzo, Capo Gal degli Uncpapa, e poi si dice che Toro Seduto fosse presente, ma in realtà non abbia combattuto sul campo, ma solo diretto la battaglia. Fiumi di pagine sono stati versati su questo epico evento. E il sito storico del Little Bighorn, situato proprio nella riserva Crow in Montana, ma di proprietà degli Stati Uniti, attrae ogni anno centinaia di migliaia di visitatori. Dalla parte dei bianchi, all'epoca Custer fu santificato come eroe e martire. Dalla parte della Lakota, invece, ancora oggi, ogni anno si celebra la grande vittoria del Little Bighorn. Purtroppo, per noi che siamo dalla parte degli indiani, di vittorie ce ne sono state poche per i Lakota. Tra i Lakota c'è tuttora la disputa su chi abbia ucciso Custer, un onore conteso tra i discendenti dei guerrieri presenti nel 1876. Pensate, quale grande onore! Ma onore fino a un certo punto, apro una piccola parentesi, cioè in realtà gli uomini bianchi agli occhi della Lakota non erano degni avversari, quindi in realtà non era un grandissimo onore combattere con gli uomini bianchi, perché non li ritenevano valorosi come gli altri delle altre tribù, insomma, come loro pari. Comunque questa battaglia rimane un simbolo indiscusso di tutte le guerre tra gli uomini bianchi e gli uomini rossi. E gli eventi di questa clamorosa sconfitta, in cui appunto, come dicevamo prima, Custer perse la vita insieme a 262 soldati e scout, sono stati girati e rigirati come un calzino, e cercando e additando colpevoli e innocenti, in quei 25-26 giugno del 1876 che videro i Lakota Sioux, gli Arapaho e i Cheyenne vittoriosi contro l'esercito degli Stati Uniti, ma purtroppo solo per un glorioso momento. Eh già, è proprio il caso di dire, solo per un glorioso momento. sappiamo tutti poi lo strapotere bianco sul popolo dei nativi d'America. Beh, grazie Raffaella per averci illustrato questa battaglia di cui sempre si parlerà. L'appuntamento con Raffaella è fissato dunque tra 15 giorni per entrare nuovamente nel mondo dei nativi d'America di ieri e oggi. E intanto vi ricordo che la prima puntata la potete trovare su Spotify, Mixcloud e naturalmente sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it. Un abbraccio a Raffaella e naturalmente a tutti quanti voi che ci avete accompagnato nel percorso della puntata di oggi. Ciao! Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Minandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.